disponibile il catalogo Primavera Negative. 132 pagine con il merchandise ufficiale delle tue band preferite, CD, DVD ed altri gadget. È gratis. Richiedilo su www.negative.it. Primi, arriviamo anche per quest'oggi al nostro primo appuntamento della giornata con lo spazio dedicato ai concerti. Allora inizia questa sera questo festival che si chiama Senza Far Rumore Festival a Cisano Bergamasco, naturalmente in provincia di Bergamo, nella zona centro sportivo. Suoneranno Zen Circus e i Ministri. L'ingresso è completamente gratuito. Domani ci sarà Paolo Benvenu e Lombroso. Sabato 17 il La Cruz e domenica 18 Tonino Carotone e gli Arpioni. Rock and Film Festival, 26 luglio, Idro Scalo di Milano con Biomechanical, Vision Divine, Threshold, Epica, Halloween e Davantasia. Andiamo all'Anakin Jamin Festival con la giornata di venerdì 20, Iggy Pop and the Stooges, Queens of the Stone Age, Linkin Park, Linea 77, Sex Pistols. Sabato 21 giugno, Matmata, Mab, Marlene Kunz e Vasco Rossi. Domenica 22 giugno, Counting Crows, Baustelle, Alanis Morissette e The Police. Evolution Festival, che si tiene al Idroscalo di Milano, Nella giornata dell'11 di luglio, Cavalera Conspiracy, Sonata Arctica, Dark Tranquility, Evergrey, Corky Plani, Sadist, Dark Lunacy. Sabato 12 luglio, In Flames, Opeth, Gamma Ray, Death Angel, Pain of Salvation, novembre, Necroleth. Bad Religion, unica data italiana, 16 giugno al Rolling Stone di Milano. Rage Against the Machine, 14 giugno allo Stadio Braglia di Modena. 31 di maggio, Travis Blues Band dal vivo all'Anfiteatro Parco Lago Nord a Paderno Dugnano, provincia di Milano. Sempre il 31 di maggio allo Stadio San Siro, Think Fashion, The Hoosiers, The Fratellis e Negramaro. Motorpsycho, 22 maggio, Viper di Firenze. 25 maggio, Alcatraz di Milano. Evader, Septic Flash, Davian saranno il 16 di maggio, domani al Music Drone di Milano, il 17 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. After Hours, venerdì 23 maggio al Palasharp di Milano. Vi parlavo prima di Glenn Hughes. Il 26 saranno al Teatro Fanin di Bologna, il 27 al Music Drone, sarà perché è lui Glenn Hughes con la sua band, il 27 al Music Drone di Milano. The Fleshtones, domenica 18 di maggio al Music Drone a Milano. E poi andiamo a concludere con i Donkeys Forever, il loro tributo ai Rolling Stones, saranno nella giornata di sabato 17 maggio alla Cueva di Melegnano, provincia di Milano. Con questo abbiamo terminato il nostro primo appuntamento, il prossimo lo trovate alle 14.35 con Max De Rio, ma attenzione, andiamo a regalare il biglietto, ne abbiamo ancora uno, è l'ultimo. Questo festival si terrà sabato 17 maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda, vicino Milano, quindi suoneranno Audition, Strike Anywhere, Silverstein, Vanilla Sky, Story of the Year e Bedouin Sun Clash. La prima persona che invia il proprio nome e cognome al 335-100-7777 vince il biglietto per assistere gratuitamente a questo festival. You're listening to Rock FM. Yeah. Black and the Pixies con la loro incredibile Where is My Mind. Siete su Rock FM a 15 minuti esatte dalle ore 11. Saluto e ringrazio Marco da Seregno che mi dice: volevo solo dirti che la mia passione per il mondo dell'hard rock e del heavy metal è nata grazie a te, dai tempi del tuo programma Linea Rock su Radio Peter Flowers. Nonostante sia stata dura portarla fino a qui, non morirà mai. Grazie a te naturalmente, Marco. Grazie, un abbraccio anche a Lore, buona giornata a voi. Andiamo ad una band italiana perché ormai, spero lo sappiate, si fa buona musica di tutti i generi rock anche in Italia. Magari a volte non si hanno i contatti discografici giusti, non si ha la pubblicazione dell'album, eccetera. Questa band è di Milano e ha pubblicato un primo album autoprodotto, questo ha una distribuzione decisamente migliore. Si chiamano My Land, No Man's Land è il titolo dell'album. Se amate il genere AOR e dei Journey, tra poco arriverà il disco nuovo, però questa è una band che vale, è su quel filone musicale, e quindi ascoltateli. My Land, questa è Voices.